Attenzione, binario 10K, c'è qualcuno? Hola, hola, attenzione, binario 10K. Ti da un canale. E chi è? Avanti, avanti, avanti sul canale. Thank you. là fuori. Ci picchia. Ecco qua. Ma forse si dà un po' quella niente, no? Visto che sono tutti drummiti, con lo zonno appedrato. Non lo so già. In qualche maniera si tira avanti, in qualche maniera. Sì, non è una questione di vita del baracchino, nella maniera più assoluta. È un hobby e basta, quando è possibile si fa, quando non è possibile mai si venga, lo baracchino è che si può fare. Cappa, no, ho detto, in qualche maniera, grazie sul tesoro. Maniera si tira avanti, ho detto. La miseria, che cos'è? Aspetta un attimo qua. Bisogna sempre andare avanti. Che cavolo. Guardare sempre al futuro, mai fermarsi. Che c'è allora. Mai perduto. Così, così. Ora, ora già sta andando, va. Già sta andando, io a buio, se alle pite troppo. Ho detto che chi si ferma è perduto. Ho detto, più ce l'ho e più mi piace utilizzarla questo baracchino. Va benissimo fatto, ok, la buglia, quello è il cobra, no? Cappa, il cobra. Va benissimo, con il suo microfono lì, così, come adesso, va benissimo, non bello, benissimo. Cappa, cappa, ehi, già andava bene, cosa me ne frega, va più che bene, va. Funziona, devo trovare ancora le funzionalità, che c'ha molte funzionalità ed è moderno e via. E appunto è quella, basta una semplice e funzionale, ce ne vuole una così, semplice e funzionale, è inutile averne tante perché non serve a niente tanto, è solo a prendere posto e a dare fastidio anche tra l'altro secondo il posto che uno ha. Per cui bastane una che vada bene, che sia anche moderna, come hai detto tu, è come la mia, lo stesso, la mia è moderna, per cui questa ho e questa mi tengo, e non la cambio più, fin quando non si blocca completamente. Capo, fai bene, fai bene. C'hai cosa? C'ha le lineette, c'ha... non è digitale come Smitter. Secondo me è uno dei venduti che funziona. Sì, anche questo ha le vignette, le barrette digitali, ormai le fanno tutti così, lo fanno forse per risparmiare lo strumentino, no? Lo smitter, eccetera. Però tutto sommato, se ci fosse anche lo smitterino con la lancetta sarebbe ancora più bello secondo me. Ma ad ogni modo non è così fondamentale, va bene ugualmente. Tanto ho fatto anche il paragone l'uno con l'altro, il confronto gli ho fatto quando avevo quella lancetta e devo dire che si equivalgono, sono più o meno uguali, non cambia molto. Ma mi pare che funziona anche meglio questo, ma c'è una ricezione di questa radio che è impeccabile, proprio bellissima, cioè non finne, cioè come ricezione, guarda, va bene proprio. Certo che sì, vanno bene tutti, ormai vanno bene tutti alla grande. Piccolino come un autoradio va più che bene. È inutile avere cose ingombranti, cose vintage, perché non serve più a niente, non vale la pena intanto avere tutte quelle cose. Basta una, è bella, sincera, è quadrata soprattutto. Sì, sì. Devo trovarli. La funzione, come si dice? Devo trovare la funzione per farlo blu. Ah, io ho capito. La mia è già blu. È nata così, per cui, vabbè, che poi non è proprio un blu intenso, è un blu un blu un pochino chiaro, dai, diciamo. Per cui va bene così. Ma sono tutte caratteristiche che a me poco interessano. A me mi interessa che funzioni bene, quando trasmetto che trasmetta bene, che quando lo ascolto che riceva bene. A me mi interessa quello. Canale ne ha volontà, per cui no, non c'è problema. Kappa. Mi adesso ho messo un watt là, che fa un watt, 3 watt, diciamo. Se mi sentivo perso, sì. E a voglia, e io sto andando con 2 watt, che poi misurato con lo strumento professionale da 1 watt e mezzo, nella condizione che adesso. Va più che bene, mi sento dappertutto. L'altro giorno stavo parlando anche con Claudio Di Muros, stavo parlando e mi sentivo anche con 2 watt, per cui non c'era problema. E poi nonostante che c'era anche un pochino di QRM. Kappa. Oh, sono passato in questa modalità qua adesso. E ti ho mandato una foto, Ok. Ha diverse funzioni. Questo poi. Cos'hai le cose, come si dice, è una specie di computer là che lo devi programmare per avere tutte le funzioni che ti può dare. Perché è un CB moderno, è normale. E adesso sto facendo un po' più basso. Dovrebbe, non so il segnale quant'è, ma dovrebbe andare. Il segnale è intorno ai 9-10 e anche oltre, un po' oltre anche dei 9-10. Ma se faccio così però è a fondo scala, vero? È così a fondo scala, sì, è un grido, ci mancherebbe. Perché io, come sono adesso, è così, come tu vedi. Se poi io voglio cambiare, faccio così, è diverso. Vedi, ne hai visti i 2 segnali, uno è questo e uno è questo. Questo è il 2 watt, così. Di più sale. Io lo grido che sale un po' di più. È normale, ma mi basta così a me 2 watt, ma chi me lo fa fare? Lo sforzo la radio. Poi se non mi sentono a 50 km vuol dire mi sentiranno a 40, che se ne frega, va bene lo stesso. No, vabbè, io quando mi devo far sentire la verità. Quando mi devo far sentire, mi faccio sentire. Ma mi potete sentire di aprire un barone. Quando è raccolto locale basta anche così, poca potenza. Tanto non li vuoi andare. Infatti il locale va benissimo così, è 2 watt. Avanti ieri ho fatto collegamento con tutta l'Italia, praticamente dall'alta alla bassa Italia, eravamo tutti in ruota, eravamo una decina, tutti quanti, da Milano, da Vercelli, da Catania, da Palermo, da Lecce, da poi qual era l'altro, ma come commendamento più, insomma, dalla zona di Roma, insomma eravamo 10 interlocutori, tutti insieme, a giro abbiamo fatto queste opere almeno un'oretta, buona, c'era un'ultima propagazione. Sì, purtroppo non c'ero io, stai tranquillo che sarei arrivato fortissimo. Perché quando cavolo, se non lo usi in quelle occasioni, scusa Giulio, quando lo usi, quando c'è questo locale che non serve a niente, cioè almeno lì devo scatenare i cavalli. Io arrivavo 9:20, 9:30, l'ho fatto l'altro giorno alle 10, fortissimo arrivavo. Arrivavo oltre i 9.5 dappertutto. Tu pensi, Novara c'era, Novara in Piemonte, ti puoi immaginare, sicché eravamo dall'alta Italia alla bassa Italia, tutti collegati, tutti in un unico QSO, eravamo una decina, 10 giusti eravamo, che mi avevo scritto anche i nomi, perché poi a dare il passaggio non mi ricordavo i nomi, allora me li ho scritti tutti. E ce li ho anche tutti scritti, 10 nomi. Kappa, io arrivo un fortissimo, uno di Vercelli che stava chiamando lui, ha detto mi sente qualcuno, ti sento io, eccetera eccetera, dai, contentissimo. C'era un altro di Milano, dice io sono nato a Osilo, però sono a Milano da tanti anni, vivo qua, eccetera eccetera, conosco bene la Sardegna, e beh, si era da Osilo, e meglio un grido che la conosce la Sardegna, ci mancherebbe altro. Per dire, no, abbiamo avuto anche quella opportunità di sentire un milanese emigrato a Milano, che poi tra l'altro è sardo di Osilo. Cappa, intanto va bene così, già. Non è facile, soprattutto se sei un partito. così a tutti, e così almeno se ritieni tutti tranquilli non te la fotti nulla, poi fai a modo tuo, fai come ti pare e ti piace. Però tu dici sempre a tutti quanti, sì va bene, d'accordo, lo tengo presente, e invece sei subito assente con le tue idee nei confronti di queste persone. Se in quella sezione lì, cioè, che tu, questo macchia di bastardi questi, non hanno imbigliato, cioè, se hanno preso voti, il dubbio non c'è più, capito? Ma se non hanno imbigliato voti in quella zona, e ci sei solo tu, cioè, adesso oggigiorno apre il telefonino, io ti ho fatto la figuraccia, avete fatto così. Apre il telefonino, lo sai, 448, lo sa, perché in quella zona capisci solo tu, capito? Ci fai figuracce, ci fa, se votano altri, vota a fare, non ti inabiti. A chi dice se la base li controlla, non è così, sono gente. No, è vero, non ne capiscono niente, non lo sanno assolutamente, perché non puoi essere, in un quartiere non puoi essere solo tu, poi al limite io ho votato a Mamoiala, perché ho una residenza a Mamoiala, e dunque sono lì, elettore a Mamoiala, cosa di la futti, tu sei magari a Sassari, cosa di la futti, non lo potranno mai sapere, poi se non glielo dici tu qual è la tua idea, non lo possono mai sapere. Non è così, ti dico che non è così, io parlo del comune di Sassari, c'è in questa, allora, una persona che lo conoscono cosa ne so, a Sassari Alta, però non lo conoscono qua, e io no, io gli prometto il voto, e non glielo do, chi tu dici in che sezione sei, sezione 19, benissimo, controlla, perché sono dei bastardoni, finiti. In diretta, a me me l'hanno fatto, ci ho fatto figura, cioè dico la verità, controlla, non che non ha buttato nessuno, ma sei sicuro, ci fa la figuraccia, quindi bisogna sempre evitare queste cose. Ma tu non devi dire, se il voto è segreto, tu non devi dire, io sono nella sezione 19 o 20 o 30 o 50, cosa te la butta te? È la sezione mia, dove abito io, ce ne sono diverse sezioni e io abito lì, e voto lì, cosa ti devo dire? Se voi ti dico anche il voto, voi che ti ho dato il voto, te l'ho dato, e invece tu non ne hai dato, lo sai, che fitte cos'è? Poi tutto sommato, ti racconta il giovanotto, ma sono obbligato a dare il voto a te, per quale motivo? Spiegami il motivo perché te devo dare il voto, avanti. Dammi solo un motivo, così tu gli rispondi, e lo bruci subito. Lo so Giulio, ma è sempre chi dà la ragione, è sempre, è un casino perché lo conosci e cosa, l'hai fatto un scavo, a me chi è un personaggio, se è possibile non mi guarda manco in faccia più, è un casino, avete abbiato in giro, capito? Tu non sei obbligato a dare voto a chi te lo chiedo, e tu dici, mica non conosco solo Artemi, tu sono di così la vita, nella vita ci sono tante altre persone e non conosco solo te, e dunque cosa devo dirti, che te ho dato il voto o che non te l'ho dato, lo devo dire a te cosa ho fatto o cosa non ho fatto, sono affari miei e basta, sai, devo dire tondo e non se ne parla più. Quando sono a potere fanno quello che piace a loro, no, non nessun altro, e non era più tenuta, penso solo esclusivamente alla fine del mese, quando gli arriva lo stipendio. Quello è il loro obiettivo principale. La voce dell'umanità non era più tenuta, non ha capito? Ma sono una massa di pagliacci, sono una massa di pagliacci. Purtroppo devi andare per forza a votare, perché sei cose comunali, sei i tuoi problemi, capito? E anche quello lì conta, è cosa? Purtroppo io non ci sarei manco andato, ma ho le mie problematiche, quindi bisogna parlare con questi qua, entra nei... come funziona? Io lo so, sì, i voti non si devono comprare con le persone promettendo ad uno e all'altro questo e quest'altro, che poi non mantengono mai la parola, già lo sappiamo benissimo. Voce di politico, voce scarsamente veritiera, sta tranquillo che così, per cui tu a putedine e quando non ti saluta cosa te la futti? Non mi saluti? Beh, ma che vengi, dove che ti metti lo manzano? Non sai che vuol dire così? Sì, no, hai ragione, già. C'è ragione. Però anche il voto so che è importante, anche perché quando gli fai domande comunali e tutto, hai più agevolazioni, capito? Questo io so. Se non hai votato ti mettono i bastoni fra le ruote, capito? Come magari una domanda che devi fare, te la tardano, è cosa? Non è che non te la danno, però ti rompono le palle. Cioè che, e quindi io pur ho i miei problemi e le mie problematiche vado sempre a votare. Solo per quello, se no non avrei dato voto a nessuno. Appunto, niente. Cosa te la fucchi? Vado al diavolo, infatti. E poi anche ammettiamo, ma ti serviva proprio il mio voto per essere eletto, così dici tu, dimmi se sei stato eletto o no, e allora significa che non sei gradito dalla gente, dagli elettori, per cui non è il mio voto che ti avrebbe fatto eleggere, che serve un po' di più, c'è nel fondo, non stare lì a... Tu non ti devi vendere per nessuno, cosa te ne frega te se quello ti promette? Allora, vuoi che ti dia il voto? Dammi 10.000 euro e ti do quello butto, sicuro. Se vuoi entriamo anche insieme in cabina, tu dimmi così a vedere cosa ti risponde. Niente, meno mi avete citato lo bezzino. Ok, dai, ti devo lasciare, Giulio. Bravo, dai. Ciao. Martina, e guarda bene Gabriele. Ciao, Anto, ci sentiamo, alle prossime. Ciao. Attenzione, 10, 1, 2, 3, prova, canale 10. Chi c'è, ascolta? Dimmi. Antonio, sei tu? Capo, sono io, dimmi tutto. Ehi, ciao Antonio, guarda un po' il segnale per favore, che è ritornato il disturbo qua. C'ho 2,7, 2,8, quasi 3 di stazionarie. Ma non sei fortissimo, Per le stazionarie, vedi, fino a ieri era tranquilla, oggi che c'è vento, sicuramente qualche falso contatto su, e ciò, quando non modulo 2,7, quando modulo arriva quasi a, e no, a 3 di stazionarie arriva, caspita. Vorrà controllata quell'antenna da molto senza guardarla, ma io forse ti arrivo. E tipo 9,15, perché come perdo in trasmissione, perdo anche ricezione. Ma che bruci tutto me. Ma speriamo. Bisogna salire e controllarla con l'antenna. Da 10 anni c'è. 10 anni quell'antenna lì. Un'antenna che chi ha detto non durerà più di 3 anni, invece è durata anche troppo, da. Ce l'ho uguale io. Bisogna salire su e dare una revisionata e poi riparte normale. secondo me sono quelli che non toccano i radiali, perché se fosse interrotto lo stilo non riceverei nulla, ci avrei le stazionarie molto più alte a fondo scala. E vabbè, che te devo dire, male che vada, monterò la Venom, che ce l'ho nella busta, ce l'ho nuova. Beh, no, l'avrei revisionata io quella. Qua si sentono delle raffiche di vento, ma sai quando senti il suono del vento? E tra i palazzi si sente parecchio. Già lo so. Ok, ti devo lasciare che sono col bambino, insomma, ti ho sentito, ti ho risposto. Ce ne risentiamo dopo, se ok. Ehi, ciao Antonio, dai, grazie del controllo. Non sei fortissimo. Ora l'antenna è con una paria. Sì, pensa che non ho nemmeno accordatore. C'ho Smith e... già capito, rosmetri buoni, ma accordatore non ne ho più. Vabbè, dai, alla prossima, ciao. Ciao, ciao, dai, che sto facendo il pranzo anche. mia e mobile dai bandieri.